Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentrovati su Mix 24 estate. Continua il nostro racconto degli anni 60 tra musica e storia, con le voci di Franco Schipani e Alessandra Fiori. Siamo arrivati al 65. Allora Franco, chi è il re delle classifiche quest'anno? Non è più uno sconosciuto, diventato un idolo, e questa è la sua canzone, quella più amata dagli italiani nel 1965. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Quindi Franco, 1965, e Gianni Morandi è ancora amatissimo da tutti quanti gli italiani. Non son degno di te, appunto, Gianni Morandi. Ciao da Franco Schipani. Buongiorno da Alessandra Fiori. Caro allora, Franco. Tanto amato Gianni Morandi che pensa nel 1965 piazza anche questi brani in classifica. Ma quando si fa sera, sì, più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu, mi fa sentire solo. Gianni Morandi con due hit del 1965, Si fa sera e Se non avessi più te. Quindi 45 giri, ma lo sai che pensavo a questa cosa, Franco? Il lato B, perché c'era il lato A e il lato B, no? Due facciate sul disco. A parte il fatto che oggi il lato B è diventata proprio un'altra cosa. Eh sì, perché non esiste più, se ci pensi, cos'è che è il lato B? È solo quell'altra cosa il lato B. E invece prima, nel 65, c'era il lato B ed erano un po' i brani che avevano meno possibilità di diventare famosi, di avere successo. Sì, sì, era così. Infatti sul lato A mettevano la canzone sulla quale loro contavano e poi sul lato B mettevano una canzone e dice ma vediamo, proviamoci un po', magari piace, magari no. Insomma, quelle sulle quali erano indecisi. Non è il caso di Mina. Adesso ti faccio sentire il lato A e il lato B. Indovina tu. Ricorderai giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Un anno d'amore, Mina, e Se domani. Ecco, Franco, scusa. Se domani? No. Questi sono due lati A nell'accezione del 1965 e due lati B in quella moderna. Ma secondo me hanno perso un'occasione, potevano fare due 45 giri mettendoci dietro altre due canzoni che magari... Ma qual era il lato A e qual era il lato B? Ah, non lo sai? Eh no. Ah, il lato B era E se domani, immagina. No, è pazzesco. Comunque, se domani il futuro è già iniziato in questo 1965 e anche nello spazio, perché il 18 maggio il cosmonauta russo Alexei Leonov, 30 anni, è il primo uomo a camminare nello spazio. Esce dalla navicella spaziale, scende dalla capsula con una tuta speciale e per 10 minuti si fa questa camminata nello spazio, appunto, senza forza di gravità e unito alla navicella solo da una specie di una sorta di cordone ombelicale. Una passeggiata che però rischia di finire in tragedia. La tuta dell'astronauta si è gonfiata così tanto per la passeggiata spaziale che riesce a manapena a rientrare nella navicella. Intanto, in quell'anno, nel 65, in Vietnam, gli americani continuano a bombardare il Vietnam del Nord, ma perdono quello del Sud. I Vietcong assaltano l'ambasciata americana di Saigon, l'ambasciatore fugge e vengono uccise 21 persone. In America, poi, e in tutto quanto il mondo, continuano le manifestazioni. Prima a Washington, ad aprile, 15.000 studenti marciano contro la guerra in Vietnam. Poi a New York, a ottobre, 10.000 persone. E a Washington, a novembre, più di 30.000 di nuovo. Il 21 febbraio del 1965, in un teatro a New York, invece, viene assassinato a 39 anni Malcolm X. Fratelli e sorelle, sono qui per dirvi che accuso l'uomo bianco di essere il più grande assassino della Terra. Accuso l'uomo bianco di essere il più feroce rapinatore della Terra. Non vi è luogo in questo mondo dove l'uomo bianco possa andare e dire di aver portato la pace e l'armonia. Lo accuso d'aver perpetrato i più efferati crimini su questa terra. Il leader dei diritti degli afroamericani in America viene crivellato con 16 colpi al cuore e al collo. Convertito all'Islam, uomo molto carismatico, viene ucciso proprio dai suoi ex confratelli della Nazione Islamica. E abbiamo sentito uno dei suoi discorsi più famosi dal film Malcolm X di Spike Lee, con l'interpretazione di Denzel Washington. Sempre in questo 1965 a Londra muoiono Thomas Elliot e Winston Churchill. E in quest'anno comunque ne succedono di tutti i colori. A novembre c'è uno dei più grandi blackout della storia. La centrale idroelettrica vicino alle cascate del Niagara smette di funzionare. E pensa che nel giro di 12 minuti, prima New York, poi via via altri 6 stati della costa occidentale e una parte del Canada, anche con le città di Toronto, Ottawa e Montreal, restano al buio. Immagina, tutto al buio. Gli ascensori sono bloccati, i semafori spenti, gli incroci intasati. Tutto quanto è fermo, Franco, tutto quanto è blackout. Sì, ma 9 mesi dopo questo blackout sono nati un sacco di bambini, cara Alessandra. Ma tu che colonna sonora immagineresti per un blackout come quello? Un blackout? Beh, la scelta è facile. Ho spento già la luce, i Dick Dick, anche questo brano preso in leasing. Era perfetto però, Franco, ci stava molto, molto, molto. Senti, quindi anche gli americani sono molto romantici in questi anni 60, in questo 65. Beh sì, romantici, però da noi il rock and roll era decisamente in buona salute. Ecco cosa proponevano nel 1965 i seguaci nostrani di Elvis. Ogni mattina ci sei tu, ogni mattina solo tu. Tu non mi guardi, ma tra mille ragazze esisti solo tu. Ogni mattina vedo te, ogni mattina so te, e spero sempre che il tuo dolce sorriso nasca cercando me. Non resisto più, amo solo te, desidero da te tutti i baci che sogno. Attacca il giradischi, presto ci faremo un altro grep. Cosa perso chi non è stato qui con noi? Ehi, ehi, ehi, ehi, finalmente ho trovato la ragazza giusta. Ma, l'ho lasciata per poco. Poco. Domani verrà. Domani verrà. Sbagliare non posso. Sbagliare. posso, è finita così, senza un vero perché, ma ogni notte ti sento con me. Ogni mattina Little Tony, La festa, Adriano Celentano e Ti senti solo stasera di Michele. Ecco, io vorrei rivalutare Michele. Michele, rivalutiamolo. Rivalutiamolo. Perché rivalutiamo Michele? Ma una voce splendida, strepitosa. È vero che Little Tony e Adriano Celentano poi sono rimasti a cantare per tantissimi anni, hanno avuto una grandissima carriera, però secondo me io ti voglio far sentire questo brano di Michele. Ti ringrazio perché sei ancora mia e mi sai dare tante cose che io non ti do. Ti ringrazio perché quando vado via sai aspettare che ritorni da te. Io vorrei provare in me quello che non sei. X24 estate. Ti ringrazio perché sei ancora mia. Ti ringrazio perché, Franco, chi è? Michele. Ah, Michele, me lo facevi sentire prima, dicevi ti faccio sentire Michele. Comunque ben trovati su Mix 24 Estate, oggi siamo nel 1965. Io sono sempre Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre Franco Schipani. Ciao. Ciao Franco. Allora, ma scusami, nel 1965 inizia il declino di Rita Pavone? Ma assolutamente no, Alessandra, anche perché Rita Pavone tra il dicembre del 1964 e febbraio del 1965 aveva trovato altri clienti. Dopo i giovani per i quali lei è diventata un idolo, ecco, a chi va adesso ad attenzionarsi? Agli adolescenti, perché sono diventati dei consumatori grazie al boom economico. Giornalino di Gian Burrasca, questa è la pappa col pomodoro, senza testo. No, è arrivato il testo, in sottofondo. Hai sentito? Ecco Rita. Pomodoro, viva la pappa, pappa, che un capo po lavoro, viva la pappa. E chi si perdeva una puntata, ma stai scherzando? Perché la RAI produsse per la TV, ovviamente, il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba, che è lo pseudonimo di Luigi Bertelli. Ecco, la regia era di Lina Wertmüller, ma delle musiche sembrano così sempliciotte, però insomma c'erano di mezzo Bacalov e Nino Rota, ecco, cara Alessandra. Ecco, aspetta, aspetta. Allora, Nino Rota lo abbiamo omaggiato negli anni precedenti, però hai nominato Bacalov e quindi, Franco? Era Bacalov, Franco, con la colonna sonora del Postino, l'ultimo film di Massimo Troisi, che naturalmente non è del 1965, ma ci piace molto e quindi noi l'abbiamo nominato Bacalov, quindi facciamolo sentire. Dai, una piccola digressione. Beh, no, è un Flash Forward. Wow. Wow, ti piace? Senti, comunque, a proposito di televisione, lo sai quanti sono gli abbonati alla Rai? Nel 1965 sono 6 milioni. E tutti già pagavano il canone. Tutti, senza la bolletta. Senti, nel 1965 entra nella televisione un altro personaggio che farà un po' di strada e si chiama Silvio Berlusconi. Ha 29 anni, presidente della società sportiva Torrescalla Eril Nord, allenata da Marcello Dell'Utri con vice allenatore Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica, sposa Carla Dall'Oglio. La leggenda vuole che i due si siano incontrati davanti alla stazione centrale di Milano. Lei aspettava l'autobus e lui invece le ha offerto un passaggio, insomma il classico colpo di fulmine. Perché quando tu stavi parlando di Berlusconi, mi dicevi Zucconi, Dell'Utri, eccetera, mi sembrava tanto Salino Banfi, sai quei film che facevano una volta quando c'era l'allenatore di pallone. L'allenatore nel pallone. Lo so anche io quello. Comunque, che cos'altro c'era oltre a Gian Burrasca alla Rai in questo 65, Franco? Alessandra, c'era teatro, cultura e grandissime varietà. Mina, io sono ancora Scapolo. Sì. Giovanile, scattante, con una posizione anche sul piano economico abbastanza importante. Sì. C'ho il fisico che mi sorregge. Che curiosità, senti sta pagnotta. Sì. Eh? Mina, non mi deridere, eh? No, per carità. Io mi butto sulle Kessler, sai. Due stanche di niente, Kessler. Ah, la notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare. La notte piccola per noi, gemelle Kessler. Che stanghe, è vero, comunque. Scritta da Castellano e Pipolo, Bruno Canfora, le musiche, sigla di Studio 1, condotto da Mina, scenografie pazzesche di Cesarini di Senigallia, regia di Antonello Falqui. Ma scusa, però una cosa, ma Mina è tornata alla conduzione? Perché se non ricordo male, Mina era stata allontanata dalla Rai perché era diventata mamma fuori dal matrimonio. Quindi mamma non autorizzata? No, non aveva il permesso. Ho capito, però vedi, quando un prodotto è più forte del, come si può dire, del mercato, della censura. Quando è molto, molto, molto forte. Molto, molto forte, molto, molto popolare. L'hanno dovuta richiamare a furor di popolo e infatti ha funzionato. Gliel'hanno fatta passare liscia, dai. Vabbè, ma chi erano gli altri grandi giocatori del 65? Te li faccio ascoltare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno. E nei tuoi occhi che piangono di noi forse nascerà un amore vero. Te lo leggo negli occhi, tu lo leggi. Mix24 estate. Bentornati su Mix24 estate. Oggi siamo nel 1965 per raccontare gli anni 60 in musica e storia. Con me c'è Franco Schipani. Ciao Alessandra Fiori. Ciao Franco. Allora Franco, oggi ancora non mi hai parlato del Festival di Sanremo. Che succede a questo festival? Quello del 1965 è ancora un festival da serie B, cara Alessandra. Comunque vince una bellissima canzone che è questa. Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedere. Soffrire mai, se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai, se piangi, se ridi, Bobby Solo. Ecco, allora abbiamo detto il festival piange, ma ci sono il cantagiro e il disco per l'estate che forse ridono. Sì, ci sono delle manifestazioni canore d'estate che vanno alla grandissima, anche grazie alla televisione, ai jukebox, ai mangiadischi e alle radiotransistor che arrivano veramente ovunque. E che cosa ascoltavamo? Ascoltavamo questo. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore, abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Ciao, ciao. Lo so perché tu sei qui e guardi verso di me, perché io sono il sole per te, il sole è tutto per te. Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ciao ciao, Pitola Clark, la casa del sole, Los Marcellos Feriale, chi mai sarà la ragazza del clan? Ribelli. Ma chi mai sarà la ragazza del clan, Franco? Era una ragazza misteriosa. Molto misteriosa. Comunque, ci hanno fatto un grande, come si può dire, era un mistero, tutta l'Italia si chiedeva chi fosse la ragazza del clan. E non si è mai saputo. No, si è saputo. Si è saputo? In questo momento sai che non me lo ricordo, si chiamava lei Milena Cantù, credo. Sì, Milena Cantù. Milena Cantù. Milena Cantù, la ragazza del clan. Senti, comunque ci sono tantissimi complessi, mi sembra, e hanno qualche somiglianza con i gruppi stranieri. Ah beh, assolutamente sì, hai sentito questi brani, però limitavano non soltanto nelle canzoni, nello stile, ma anche nell'organizzazione. Per esempio i Ribelli erano il gruppo di Adriano Celentano, facevano parte del suo clan, che era un po' il clan di Frank Sinatra, il Red Pack, tanto per intenderci, la Casa del Sole e Marcello Sferiali, che copiavano agli inglesi di sana pianta. Ma comunque erano talmente tanti i complessi in quel periodo che tutte le manifestazioni hanno dovuto organizzare delle categorie apposite per farli partecipare. Però io ti voglio dire che tutti questi gruppi non ce la fanno a rivitalizzare l'economia e quest'anno ancora non va bene. Alcune aziende sono in crisi e iniziano gli aiuti di Stato. Intanto diamo uno sguardo agli stipendi e ai prezzi, ovvero Franco ti do un po' di numeri. Un insegnante di scuola media guadagna 110.000 lire al mese, il Corriere della Sera costa 50 lire, un chilo di pasta 245 lire, una scatola di cerini 50 lire e 10 nazionali 90 lire. Il 1965 è però per l'Italia anche e ancora un anno di grandi inaugurazioni. Nuovo lavoro per Taranto e per il Mezzogiorno. Il presidente del Consiglio Moro, accompagnato dai ministri Colombo, Pieraccini, Boe e Arnaudi, inaugura l'acciaieria del quarto centro siderurgico. La città dell'acciaio, grande una volta e mezzo Taranto, è stata realizzata da Italsider, che fa parte del gruppo IRI Finsider. Accennando a questa impresa, il ministro per le partecipazioni statali, Bo, ha sottolineato che con essa e con le altre realizzazioni nel sud si è voluto compiere un atto politicamente lungimirante. Ecco, un atto politicamente lungimirante, così veniva definito dai ministri dell'epoca. Oggi sappiamo che questo impianto siderurgico di Taranto ha dato lavoro, ma è stato anche ed è ancora un grandissimo problema ambientale. La storia travagliata dell'impianto del quartiere di Tamburi a Taranto arriva infatti molto molto chiaramente fino ai nostri giorni. All'epoca comunque l'impianto, che era costato 350 miliardi di lire, dà lavoro a 4.500 persone e produce 4 milioni di tonnellate d'acciaio, un terzo del fabbisogno nazionale annuo. Oggi l'opera è una luminosa realtà, un'invitante strada perché gli europei sentano più vicini i popoli che parlano sì un'altra lingua, ma che hanno gli stessi ideali e gli stessi interessi. Solennemente l'hanno inaugurata, percorrendola per primi, fianco a fianco, il presidente Saragat e il presidente De Gaulle. Un incontro importante in un momento in cui la via dell'Europa sembra sbarrata da incomprensioni che speriamo momentanee. E appunto per questo il grande traforo è un invito, è un atto di fiducia nel domani. È un augurio. Dopo l'incontro tra italiani e francesi nel 62, ti ricordi Franco, lo scambio di champagne e di parmigiano reggiano, nel 65 si festeggia l'inaugurazione del traforo del Monte Bianco. Il presidente della Repubblica italiana Giuseppe Saragat e quello francese Charles de Gaulle inaugurano il traforo stradale del Monte Bianco con i suoi 11,6 chilometri. È la galleria stradale più lunga al mondo. Parte dalla Francia, vicino a Chamonix, e arriva in Italia vicino a Courmayeur. In galleria passano 660 veicoli l'ora. Rispetto a una strada normale si risparmia un'ora e mezza di tempo. Nel 65 la lira si riprende e il Financial Times assegna alla nostra lira l'Oscar della moneta per la capacità di ripresa dimostrata dalla nostra valuta dopo la crisi dell'inverno precedente. E c'è una piccola cosa che succede che potrebbe passare inosservata. A Ponzano Veneto, vicino Treviso, quattro fratelli, Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo, fondano una nuova azienda che farà storia. È un'azienda di abbigliamento e la chiamano, te lo dico? United Colors of Benetton. Bravo. Ma torniamo alla musica, Franco. Cosa sta succedendo fuori dall'Italia in questo 65? Beh, cara Alessandra, innanzitutto i Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Yeah. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. I Beatles con Help Yesterday and Ticket to Ride, cara Franco, Alessandra. Però nel 1965 in Inghilterra, va bene i Beatles, abbiamo capito, però non erano i soli, dai. Assolutamente no, cara Alessandra, perché nel 1965 un gruppo pubblica il primo vero manifesto ufficiale dell'insofferenza giovanile. Li annuncio in piedi, mi è sempre piaciuto farlo questo. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Satisfaction, the Rolling Stones. Qui dicono Satisfranco. Si è capito che sono un Rolling Stoniano? No, non si è capito per niente, Franco. Va bene, dai, raccontaci la sostanziale differenza tra un gruppo e l'altro. Guarda, si dice che fossero un po' rivali, ma non è vero niente. Ma non è vero, perché il primo contratto di Rolling Stones gliel'ha fatto fare uno dei Beatles. Ma ti rendi conto? Cioè, è stato raccomandato. Mick Jagger è stato raccomandato da George Harrison, capito? Va bene, ufficiale. Però poi c'era chi stava per i Rolling Stones e chi stava per i Beatles. Ma sì, perché i Beatles erano tutti pulitini, tranquillini, signorini, con la giacca e cravatta. Sì, invece i Rolling Stones erano molto, ma molto più trasgressivi. Non a caso la regina Elisabetta ha fatto baronetti i Beatles. Va bene, Franco, ma da te, a livello musicale, mi aspetto una chiara, netta distinzione musicale tra i due gruppi. Ma hanno avuto un'evoluzione i Beatles incredibile, perché sono partite da canzoni da 3 minuti e 20 secondi, facendo delle cose anche abbastanza divertenti, ballabili. Comunque sono arrivate a creare il disco forse più bello nella storia del rock. Molti lo mettono addirittura al primo posto in classifica, che è Magical Mystery Tour e Sgt. Pepper's, che sono due veri e propri capolavori della musica pop. Però attenzione, perché i Rolling Stones nel 1965 riescono a fare questo. Off my cloud, vai via dalla mia nuvola. My cloud, però Rolling Stones. Io me ne vado dalla tua nuvola, però c'era anche questo nel 65, Franco. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. va bene, c'era anche She Loves You dei Beatles, che proprio nel 1965 sono arrivati finalmente in Italia. Il 24 giugno al Vigorelli di Milano, il 25 giugno a Genova, il 27 e il 28 a Roma. Hai voluto dire proprio il giorno esatto? Ma sì, perché sono giorni che nessuno potrà mai dimenticare, credimi. Quando sono arrivati alla stazione di Milano, i Beatles, vorrei provare a fare la voce di un cronista dell'epoca, che era questo: alle 23.15 sono saltati i cordoni della polizia e la massa è straripata sui marciapiedi. Alle 23.20 la polizia ha organizzato il contrattacco e sono volate le prime botte. Alle 23.30 la marea era costretta a ritirarsi. Giù, lungo la scalinata e sulla piazza, la pressione veniva domata con i manganelli. Love, love me do. Love me do, oh, love me do, love, love me do. Love, love me do, Franco, però i Beatles che scappavano dai fan non scappavano dai giornalisti. No, assolutamente no, anzi le loro conferenze stampa, Alessandra, erano molto ma molto divertenti, perché c'era proprio un senso di cameratismo tra loro e i giornalisti, quelli che li intervistavano. Per esempio, in una famosa conferenza stampa qualcuno gli chiese: se voi vi accorgeste di perdere i capelli, cosa fareste? Loro: ricorreremo a delle parrucche. Giusto. Ma per quanto tempo prevedete di stare sulla cresta dell'onda? Finché dura, e durerà parecchio. Pensate che esista qualcuno più grande o più importante di voi? La regina. Ammirate Shakespeare, almeno. Certo, è inglese, però lui non ha venduto tanti dischi. Bravi. Non erano preparati, erano proprio così. Tutti così? Sì, erano molto divertenti, sì. Beh, simpatici. Molto. Quella, lo sai chi è quell'arroganza affascinante? L'arroganza, che ne so, di Harrison Ford in Star Wars, quando lei gli dice ti amo, e lui: lo so. È quella lì. Ah, ti è rimasto. Sì, è vero, mi ha colpito un pochino. Vabbè, ma chi altro c'era con i Beatles? Chi altro c'era con loro a suonare? Dunque, ai concerti dei Beatles hanno assistito complessivamente 40.000 persone. Pensa che un biglietto costava all'epoca 750 lire, fino alle 3.000 lire per i posti VIP. Comunque, 1965, i Beatles in Italia. Ecco, come sono andati questi concerti? Ma è bello, perché questa è la parte che dovresti fare tu, perché certo, di solito fai i numerini. La vuoi dire tu? I numerini? I numerini? Allora, se vuoi la dico io. Vai, vai, vai. Quasi 40.000 persone, un biglietto costava dalle 750 alle 3.000 lire, però ti dico anche che un caffè costava 50 lire. Quindi un sacco di gente, Alessandra. Beh sì, tanta, tanta, tanta gente. Comunque, guarda, i concerti dei Beatles sono stati anche una vetrina promozionale per molti artisti italiani che si sono esibiti prima di loro. Ma perché non vuoi sentire la mia voce? Ma perché non vuoi sentire ciò che dice? Sta dicendo che ti amo, che non vivo senza te. La mia voce è New Dada, io l'ho capito, Fausto Leali e Peppino Di Capri con La La La La. Mancava però Mino Reitano. No, che c'entra? Come che c'entra? Ma tu... Allora, Mino Reitano era in Germania nel periodo tedesco dei Beatles e lui era diventato in quel periodo molto amico di John Lennon. Pensa che John Lennon, Mino Reitano, erano molti amici, ma qualcuno si aspettava anche di vederlo ai concerti, però non c'è andato, non è stato invitato. Non lo invitavano? No, l'hanno invitato, ma non le case discografiche. Povero Mino Reitano. Comunque, in questo 1965, per la prima volta, un papa parla all'ONU. È Paolo VI che fa questo discorso. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix. Mai più la guerra, un discorso contro ogni guerra, ma soprattutto contro quella in Vietnam, perché il 65 è l'anno in cui l'amministrazione Johnson non smette di bombardare il paese. Intanto, un italiano, Amintore Fanfani, viene eletto presidente dell'ONU con 110 voti su 114, finora l'unico italiano ad aver ricoperto questo ruolo. E intanto, nelle edicole italiane, arriva un nuovo quotidiano, si chiama, Franco... Il Sole 24 Ore. Il quotidiano è diretto erede del Sole, fondato nel 1865, e il 9 novembre del 1965 si fonde con il 24 Ore, nato invece nel 1946. Nasce così, appunto, il Sole 24 Ore. Ma Franco, torniamo alla musica. Che succede nell'Italia del 1965? È stato un anno ricco di novità, cara Alessandra, di nuove energie. Il sabato su Radio 2 dalle 17.40 alle 18.30 in punto va in onda questo programma. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito. E se vuoi divertirti, vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai... Il programma si chiama ovviamente Bandiera Gialla, presentato da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. 12 brani presentati a puntata, divisi in 4 terne. Ognuna con un finalista. C'erano i ragazzi in studio con le bandiere gialle che li votavano, noi ragazzi fuori su un prato con un grande transistor, o piccolo transistor, o medio transistor, però eravamo tutti quanti lì a sentire il programma in religioso silenzio. Tra i quattro, tra le quattro terne, al vincitore va il disco giallo. Brava! Oh. E si sentiva questa musica. Walter Bonatti arriva in solitaria sulla cima del Cervino, scalando la parete nord, la cosiddetta direttissima. Una parola, un'immagine. A Milano, intanto, allo stadio San Siro, il 18 giugno, Nino Benvenuti, con un montante destro, stende alla sesta ripresa Sandro Mazzinghi e diventa campione mondiale dei pesi medi junior. Ha 27 anni e arriva da Trieste. Per l'Italia è il match del secolo, una rivalità tra i due che dura da oltre 50 anni. Sempre sullo sport e sempre sui grandi campioni, Felice Gimondi vince il Tour de France. Noi non ci siamo fatti mancare niente nel 1965 nello sport, ma anche nel cinema succedono un po' di cose importanti. Perché esce nelle sale italiane un film, un'opera prima, pensa, e a girarla è un giovane che si chiama Marco Bellocchio. Prova soltanto a immaginare, Augusto, se tu fossi solo, senza noi quattro. Per la prima volta nella tua vita potresti pensare a te stesso. Da uomo a uomo. È I pugni in tasca, un manifesto che per certi versi anticipa la contestazione sessantottino. E ora noi, senza contestazioni, Franco, salutiamo il 1965 con una canzone su cui siamo tutti molto d'accordo, perché la scelta Antonella Migliaccio. E quindi siamo tutti d'accordo. In questo caso, Franco, mi dispiace tanto per te, la cover è più famosa dell'originale. Battiato, te lo leggo negli occhi. Noi ci vediamo nel 1966. Ciao da Alessandra Fiori e da Franco Schipani. Ciao. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo.